Bene, parliamo di bellezza stasera. Quanti vogliono sentire quello che il Signore ha da dirci questa sera? Il Signore vuole parlare al tuo cuore. Siamo qui in questo luogo sapendo che il nostro Gesù è vivo, non è scritto solo sui banner, è qualcosa che noi siamo convinti, perché lo sperimentiamo. Le donne stamattina hanno finito il loro ritiro, una decina di donne erano al rifugio e Dio ha operato miracoli, perché noi abbiamo un Gesù che è vivo, è più vivo che mai, è potente da operare, e Lui è presente qui questa sera e vuole parlare al tuo cuore, perché Lui è vivo, vivo. Ora, la tematica che vi ho promesso, che avrei sulla quale avrei insegnato per 4 domeniche di seguito, è la tematica di quest'anno: di gloria in gloria. Ci piace questa immagine, di gloria in gloria. È bella come immagine, perché sapete, quando noi leggiamo nella parola di Dio che Dio vuole che noi passiamo da un livello di gloria all'altro, sta parlando di una progressione, sta parlando di qualcosa che cresce. E che cos'è la gloria? La gloria è lo splendore, la gloria è la bellezza, la gloria è ciò che è onorevole, la gloria è qualcosa che è ammirabile, e tu sei chiamato ad essere sempre più ammirabile, sempre più bello. Puoi dirlo alla persona che ti sta a fianco: sei destinato ad essere più bello ancora di quanto già sei, di bellezza in bellezza, di gloria in gloria. E guardiamoci, siamo tutti molto belli, è vero? Siamo una chiesa bellissima, Dio ci ha fatti tutti in una maniera stupenda, e Lui ha livelli di bellezza maggiore, Lui ha livelli superiori di bellezza. È bello perché proprio nella traduzione inglese dice da un livello di gloria all'altro, e lo conosciamo il verso di riferimento in 2 Corinzi al capitolo 3 dal versetto 18, dice questo: e noi tutti a viso scoperto contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati. La contemplazione porta trasformazione. Se tu contempli Cristo, vieni trasformato, leggete con me, nella sua stessa immagine. Tu vieni trasformato nella stessa immagine di Cristo, in un percorso progressivo di bellezza, di gloria, di conquista, di vittoria, perché questo è quello che Dio ti ha destinato a vivere, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Questo processo è un costante progresso che Dio ha in mente per ciascuno di noi. E lo sapete perché? Sapete perché? Perché Dio ti ama. Dio ti ama. Chiunque tu sia che mi stai ascoltando in questo momento, Dio ti ama profondamente. Ed è per questo che vuole che tu non rimani nella condizione in cui ti trovi, ma vinci, conquisti, avanzi e vivi questa progressione, perché io voglio ricordarcelo, è fondamentale che noi ce lo ricordiamo regolarmente: il nostro Dio è anche nostro padre. Lui è un padre, ed è un padre perfetto, è un padre buono, e ogni genitore, ditemi se sbaglio, non sono genitore, ma so che ci sono tanti genitori in mezzo a noi, ogni genitore vuole per il proprio figlio o per la propria figlia il meglio, vuole che cresca, vero? Non c'è genitore che non voglia che i propri figli crescano, che cresca in salute, che cresca in educazione, che cresca con dei principi e dei valori sani per diventare un giorno un uomo o una donna che è capace di vivere una vita che è sana per se stessa e per gli altri. Questo è quello che ogni genitore vuole: vuole dei figli che sono autonomi, indipendenti e in grado di fare delle scelte sagge. Questo è il desiderio di ogni genitore. Il nostro Padre, che è il Padre perfetto, vuole ancora di più questo per te. Ed è per questo che Lui fa in modo che ogni cosa, abbiamo già citato Romani 8 stasera cantandolo, e proprio in Romani 8 c'è scritto che Lui fa cooperare ogni cosa al bene per coloro che lo amano. Lui fa cooperare ogni cosa al bene per coloro che lo amano. Lui ti espone a situazioni, Lui ti mette in circostanze. Ci sono delle battaglie che ti fa affrontare. Ma perché? Perché è un padre buono e vuole che tu vada di gloria in gloria. Genitori che tutelano eccessivamente i loro figli, che li mettono in una campana di vetro, che li fanno vivere viziati, totalmente dipendenti ai genitori, al nucleo familiare, sono dei genitori che fanno un torto ai loro figli. Siamo d'accordo su questo? E questo che cosa fa? Non fa altro che far crescere dei ragazzi, delle ragazze che sono incapaci di essere esposti alla società e alla vita. Da maturi, da uomini e donne mature, alla quale noi tutti siamo, dobbiamo affacciarci a un certo punto. Tuo figlio, tua figlia, a un certo punto uscirà da quella casa. E fai bene come genitore ad esporlo a determinate sfide, ad esporlo a determinate situazioni, proteggendole e poi elaborandole col tuo figlio per farlo maturare, per educarlo ad affrontare la vita. E questo è quello che Dio fa con noi. Tutto coopera al bene. Non sei abbandonato nella situazione in cui ti trovi. Il fatto che tu stia affrontando delle sfide o delle tempeste non è perché Dio ti ha abbandonato, non ti vuole più bene. Ehi, te lo voglio ricordare, è molto importante, hai un padre che è buono e perfetto. E sai una cosa, Giovanni 1 dice che se noi riceviamo Cristo Gesù, noi diventiamo figli suoi. E se sei figlio suo, lui non ti scarta, non ti rigetta. Non arriva mai ad un punto nel quale dice: mi sono stancato di te, vai via, avanti un altro. Non lo fa mai, perché sei suo figlio. E nessun buon genitore farebbe mai una cosa del genere nei confronti del proprio figlio. Dio ti ama, è un padre buono e lui fa in modo che ogni situazione cooperi al tuo bene per portarti a vivere di gloria in gloria. Amen. Abbiamo un Dio buono, hai un padre buono, lui ti ama e vuole il meglio per te. Non essere scoraggiato, non essere deluso, vai avanti perché Dio ha il meglio per te anche in quello che stai attraversando. Io stasera voglio parlarvi di una specifica conquista che credo che Dio voglia che noi tutti conquistiamo stasera. Un tipo di gloria che dobbiamo abbracciare. Il titolo del mio messaggio è la gloria della maturità. Dio vuole che tu abbracci la gloria della maturità. E voglio leggere con voi un verso che si trova in Ebrei al capitolo 5 dal versetto 11. E noi troviamo qui l'autore degli Ebrei, un autore sconosciuto che scrive questa lettera e sta spiegando a questo punto la gloria, la grandezza, l'altezza di Cristo, superiore a Mosè, superiore ad ogni sommo sacerdote del Vecchio Testamento. Sta facendo un discorso molto profondo. Sta parlando di Melchisedec e sta spiegando che Melchisedec era solo un tipo di Cristo. Per tipo in teologia si intende un'immagine di Cristo. E poi, e io lo immagino l'autore degli Ebrei che mentre è ispirato dallo Spirito Santo ed è guidato a scrivere queste parole, ad affermarsi un attimo, ricorda a chi si sta rivolgendo e esprime queste parole. E qui noi leggiamo il cuore paterno di Dio che parla a ciascuno di noi. E lui dice, su questo argomento, l'autore degli Ebrei, su questo argomento dice, avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Leggete il cuore paterno. Noi leggiamo in diverse parti, a dire il vero, della parola di Dio, della Bibbia, che Dio è un padre e lui ama il figlio che corregge. Quando sei corretto da Dio è perché lui ti ama, non perché ti sta rigettando, non perché sta chiamando un altro, non perché ti vuole rimpiazzare, non perché è stufo di te, ma ti riprende perché ti ama come ogni genitore riprende il proprio figlio perché lo ama. E in questi pochi versi noi leggiamo una riprensione, noi leggiamo un rammarico da parte dell'autore. Qual è il rammarico di quest'autore? Il rammarico dell'autore, e in fin dei conti di Dio che ispira la parola, è che queste persone, questi credenti, gli ebrei, avrebbero dovuto essere già dei maestri e invece si ritrovano ancora ad essere degli studenti. Avrebbero dovuto mangiare cibo solido e invece hanno ancora bisogno di latte spirituale. Lamenta il fatto che sono dei bambini inesperti della parola, piuttosto che essere così esercitati, così esperti della parola, da discernere autonomamente, come abbiamo letto, il bene dal male. Lo leggete questo rammarico? È un rammarico che ci deve mettere in guardia, perché è bellissimo vedere che la parola di Dio rimane contemporanea, è vero? Era un problema dei credenti di 2000 anni fa e purtroppo rimane un problema dei credenti di oggi. Qual è il problema? Non abbracciare la maturità, non abbracciare la gloria della maturità. Io questa sera voglio dirti che Dio ti dà il privilegio e l'opportunità di abbracciare la gloria della maturità, di diventare grande. Quanti vogliono diventare? Vi ricordate quando eravate piccoli? Quanto volevate diventare grandi? Poi diventi grande e vuoi diventare di nuovo piccolo. È vero anche spiritualmente. Dio ti sta dicendo questa sera: fai l'uomo, cresci, matura. E questo passaggio di gloria in gloria dipende da qualcosa di molto specifico. Se tu vuoi vivere un passaggio dalla gloria nella quale ti trovi oggi alla gloria successiva, prima di tutto, fatemi dire questo, devi essere disposto alla correzione. Un figlio che è ribelle non fa tanto un torto ai propri genitori quanto un torto a se stesso. Ed è così anche per noi quali credenti. Quando noi ci ribelliamo a Dio, non facciamo tanto un torto a Lui. Non ha bisogno di essere accompagnato, se no non sta supplicando che noi gli facciamo del bene, lo facciamo sentire bene perché ci comportiamo come piace a lui. Non ha bisogno di questo, lui è autosufficiente, è glorioso in se stesso, ma lui vuole il meglio per te. Quando tu ti ribelli a Dio, tu fai un torto a te stesso. Oggi posso darti delle chiavi pratiche per fare dei salti di qualità nella tua vita. Vuoi vivere un passaggio dalla gloria in cui ti trovi alla gloria successiva? Allora la prima cosa che devi fare, alla luce di quello che abbiamo appena letto, è accetta la riprensione, accetta la correzione, accetta che qualcuno dica nella tua vita ciò che non va bene, per migliorarti. Qui l'autore degli Ebrei conosceva i suoi lettori, li conosceva evidentemente di persona per potersi esprimere in questa maniera. Tu hai qualcuno che ti conosce personalmente e che ha l'accesso e la possibilità, nella grazia e nell'amore di Dio, di correggerti per farti crescere vita spirituale, nel tuo cammino di gloria in gloria che Dio ha in mente per te? Prova a fare questa domanda a quella persona. Forse quella persona è tuo marito, forse quella persona è tua moglie, forse è un responsabile di chiesa, forse è un amico, un'amica, un fratello, una sorella. Prova a fare questa domanda e a dirgli dopo questa sera: senti, che cosa vedi in me che dovrebbe cambiare? Che cosa vedi in me che dovrebbe cambiare affinché io possa assomigliare di più a Gesù? Poi aggiungi questo, dimmene solo una però, se no me ne vado in depressione, ok? Non farmi la lì, soprattutto se vai da tuo marito, da tua moglie. Ah, bene, avevo giusto preparato per te questa enciclopedia che sto scrivendo da anni, dal primo anno di matrimonio, e ho tutto un elenco per te. No, no, no, aggiungi questo, dimmene solo uno, voglio lavorare su una cosa. Se non sei disposto a fare questa domanda, allora ti dico già io che cosa deve cambiare in te, ok? In te deve cambiare il fatto che devi crescere nell'umiltà. In te deve cambiare il fatto che devi crescere nella vulnerabilità. In te deve cambiare il fatto che devi crescere nel morire a te stesso e abbracciare la riprensione nella tua vita. Amen? Siamo d'accordo su questo? Quanti riconoscono di essere cresciuti perché hanno avuto delle persone leali e sincere che a un certo punto più volte nella propria vita gli hanno detto: sai che questa cosa non va bene di te? Quanti lo possono dire? La mattina quando noi ci svegliamo abbiamo tutti noi bisogno di uno specchio, siete d'accordo con me? Puoi sforzarti a girare gli occhi velocemente, no? A cercare di guardare te stesso o i capelli, ma non ci riuscirai mai. Noi non riusciamo a vedere noi stessi. E questo è un problema, fratelli e sorelle, perché noi ci facciamo un'idea di noi stessi. Non ci rendiamo conto che abbiamo il prezzemolino in mezzo ai denti, no? Perché non lo vediamo. Non ci rendiamo conto che abbiamo le borse agli occhi pendenti, no? Non ce ne rendiamo conto che i nostri capelli sono spettinati, hanno bisogno di un parrucchiere. Stamattina mi sono svegliato e ho detto... Ho un'illustrazione per il messaggio di oggi, devo andare dal parrucchiere. Tutti noi abbiamo bisogno di uno specchio, e Dio ti ha dato la grazia di far parte di una chiesa imperfetta come te, che ha la possibilità di dirti: vedi che questa cosa non va tanto bene, correggila. Vuoi passare di gloria in gloria? Sii vulnerabili, fatti correggere, accetta la riprensione, accetta le critiche costruttive. Amen? Ci piace? Che bello, è bello leggere da parte vostra entusiasmo in questo. Dio ti vuole maturo, Dio ti vuole far crescere, Dio vuole che tu lasci la condizione di infanzia per abbracciare la maturità spirituale. Questa cosa è entusiasmante, fratelli e sorelle, è la cosa più bella che ti può capitare, crescere spiritualmente alla statura di uomo. Dio vuole che tu superi questo problema della mancanza di vulnerabilità, e poi vuole che tu fai esattamente quello che abbiamo letto, che tu diventi un maestro. Abbiamo letto insieme. Dio vuole che tu diventi un maestro della sua parola, un uomo maturo che è esperto, un professionista della parola di Dio, così ripieno della parola di Dio perché l'ha meditata, la medita, la contempla, la memorizza, che davanti ad ogni circostanza sa che cosa fare, non perché deve cercare da qualcuno o deve essere turbato da qualche sentimento, sa che cosa fare perché ha padronanza nella parola di Dio. Ci sono persone che vengono a me e dicono: pastore Mirko, io non riesco a sentire la voce di Dio, pastore Mirko, quanto mi piacerebbe essere più sensibile alla voce di Dio. E io dico: apri la Bibbia ogni giorno e riempiti della parola che è a tua disposizione, perché Dio vuole operare attraverso la parola che Lui ha già scritto per la tua e la mia vita. Scegli di far tua la parola di Dio, scegli di battezzarti nella parola di Dio ogni giorno, scegli di leggere un libro che ancora non hai compreso, perché esattamente come quando sei venuto a conversione è stato necessario per te leggere dei libri, quali l'Evangelo di Giovanni, che non comprendevi, però poi mano a mano hai compreso e ha alimentato la tua fede. Oggi forse è tempo che tu legga Ecclesiaste, o che tu legga Isaia, o Osea, o un libro del Vecchio Testamento è consigliabile, no? Perché sono convinto che noi tutti abbiamo letto e riletto il Nuovo Testamento. Vai a scavare di più nella parola, perché più scavi nella tua parola, più attingi dalla sapienza e più avrai una vita che sarà gloriosa. Dio vuole darti la possibilità di essere un uomo maturo e di crescere in gloria, e questo avviene attraverso la maturità e la capacità di essere esperto della sua parola. Ora siamo ad un punto cruciale di questo messaggio, sapete? Siamo a un punto cruciale. Questo è il punto che c'è sempre in un messaggio. Quel punto cruciale dove hai capito il tema, hai capito lo scopo del messaggio e hai in mente esattamente per chi è questa parola. E ti entusiasma, no? Che dici, pastore, sì, predica, perché questo è proprio per mio marito. Predica, perché questo è proprio per la persona che mi sta a fianco. E ti irrigidisci, no, in quella sedia, e sei appassionato con me per le cose che sto dicendo, perché stai pensando che queste parole sono per un'altra persona. E magari anche giri un po' gli occhi per vedere come sta reagendo alle parole che sta ascoltando. Sta annuendo. È distratto, ti preoccupi, se va al bagno in quel momento dici, mannaggia, pastore, fermati un attimo, perché è proprio per lui, non è per me, è per lui questo messaggio. No, posso dirti questo messaggio è per te. Io conosco una persona che è immatura spiritualmente. Io conosco una persona che ha bisogno di sentire in una maniera anche tagliente e diretta, devi crescere nella lettura quotidiana della parola, ti devi immergere nella parola, la devi memorizzare, la devi vivere di più costantemente e quotidianamente. Io conosco quella persona e sapete come si chiama quella persona? Si chiama Mirko Ronchi. Io sono immaturo e devo crescere. E a questo punto del messaggio tu devi fare una scelta e devi dire, questo messaggio è per me. Ricevo la riprensione, ricevo la correzione e voglio crescere dalla gloria in cui mi trovo alla gloria successiva. Questo messaggio è per te. Puoi ripeterlo con me? Puoi dire ad alta voce, questo messaggio è per me, non per te. Ripetiamolo insieme, questo messaggio è per me, questo messaggio è per me. Lui ti vuole maestro, esperto della parola e esercitato nell'utilizzo di essa per ogni area della tua vita, per il tuo matrimonio. Tu devi sapere che cosa dice la parola, per il tuo rapportarti e relazionarti con gli altri, tu devi sapere che cosa dice la parola, per il tuo collega di lavoro, tu devi sapere che cosa dice la parola, per ogni cosa che ti troverai a vivere, tu devi sapere che cosa dice la parola, tu devi sapere che cosa dice la parola di Dio, per tutte le cose che affronti ogni giorno, la parola di Dio deve essere così una voce che urla nelle tue giornate in modo tale da scavalcare ogni altra voce che ti vuole derubare della gloria successiva alla quale Dio ti ha destinato. La parola di Dio deve urlare nel mio cuore e nel tuo cuore. Gesù ci dà esempio di un uomo che dipendeva dalla parola. Quando ha avuto la minaccia più pericolosa della sua vita, il Satana si è presentato davanti a lui e lo ha tentato per ben 3 volte. Gesù non ha risposto con le sue parole, ha risposto con la parola di Dio citata a memoria. Ed è stato in grado di citare la parola di Dio a memoria perché l'ha memorizzata. Quante volte in situazioni difficili lo Spirito Santo ti ha fatto ricordare un verso biblico e quel verso biblico ti ha dato forza per allontanare il tentatore, per allontanare il distruttore della tua vita. Ma sai perché l'ha messo nel tuo cuore e te l'ha fatto ricordare? Perché tu un giorno hai scelto di memorizzarlo. O forse il pastore l'ha ripetuto così tante volte quel verso che ti è entrato in testa. Memorizza la parola, medita la parola, contempla la parola, metti radice e fondamenta sulla parola. Qualche settimana fa ero in quella che ritengo sia la città più bella del pianeta, almeno di quelle che io ho visitato. Era Vancouver in Canada, lo sapete tutti voi molto bene. Ed ero davanti alla vista di questa città che non potrei descrivere, è difficile per me descrivere, vi farò vedere delle foto ma non rendono. È una città bellissima, moderna, una città che è immersa nel verde e ha queste strutture che sono così alte, maestose. Guardiamo qualche foto insieme, guardatele insieme con me, vedete il verde che c'è, gli alberi che si elevano e poi tutti questi palazzi moderni, alti. Non vi ricorda Bitonto un po'? Scusate, Bitonti. Guardiamo la prossima foto. Ora, vedete Il motivo per il quale vi sto facendo vedere queste foto è perché questi grattacieli, la loro bellezza, il loro splendore, dipende da qualcosa che noi non vediamo. La città di Vancouver è solida e stabile nelle intemperie, rimane bella, meravigliosa, e puoi farci fotografie e puoi appendere quadri al muro della sua bellezza, perché c'è qualcosa che la sostiene, e ogni singolo palazzo che voi vedete è tale, alto, bello, glorioso, maestoso, non per quello che vediamo, non tanto per i vetri specchiati, per le forme che hanno, ma per qualcosa che non tutti noi vediamo, anzi nessuno di noi vede: sono le fondamenta. Questi palazzi sono retti da fondamenta, e più i palazzi sono alti, più le fondamenta devono scendere in basso. E ci sono queste fondamenta che non sono belle da vedere, sono in calcestruzzo e acciaio, e vanno giù in profondità, nel fango, nella melma, nel terreno, per arrivare alla roccia. E quando si stabilizzano alla roccia, tanto più sono stabili in quella roccia, tanto più si possono elevare in altezza. La tua vita si può elevare in gloria, la tua vita può aggiungere piani gloriosi, la tua vita può essere qualcosa di bellissimo che altri possono osservare, nella misura delle fondamenta che scendono in basso. Non è quello che tu rivesti come maschera che ti rende bello. Non è quello che tu puoi mostrare agli altri apparendo in pubblico o al lavoro con tutta la tua eredità di conoscenze spirituali, ma quanto tu scavi giornalmente per le tue fondamenta. Scava nella parola di Dio, arriva alla roccia, e più lo farai e più ti eleverai in gloria. La tua vita dipende da questo, dipende da quello che avviene nella tua stanzetta, nel segreto. Quello che dipende, quello che fai nella tua stanzetta fa dipendere ogni tua scelta. Quando chiudi la porta e nella solitudine della tua stanza apri la Bibbia e leggi dei versi, li mediti e li contempli, chiedi a Dio di parlare al tuo cuore, e poi preghi e stai alla sua presenza, è in quel momento che tu stai scavando delle fondamenta indispensabili per permettere alla tua vita di andare di gloria in gloria. Questa è la vita del credente, ed è Gesù che lo dice. Questa è la vita di essere cristiani. Non partecipare a dei programmi, delle attività, degli incontri, ma vivere la relazione, l'intimità con Lui. È una scelta quella che noi dobbiamo fare, è una scelta personale. Io non la posso fare per te, però noi tutti possiamo immedesimarci in questi ebrei che erano duri dall'ascoltare, duri dal contemplare la parola, andare in profondità. Noi tutti, anzi forse più di loro, siamo distratti. Siamo superficiali, ci piace il latte, ma non vogliamo il cibo solido che va digerito. Gesù vuole stasera che tu abbracci la gloria della maturità. Dio vuole che tu stasera fai una scelta e dici: io voglio passare dalla gloria in cui mi trovo ad una gloria successiva, e voglio essere un uomo, voglio abbracciare maturità nella mia vita. C'è un altro verso che è straordinariamente simile a quello che abbiamo letto, e si trova in 1 Corinzi 3 dal versetto 1. Voglio leggere questo verso in conclusione al mio messaggio, e guardate quanto è simile. Guardate come l'apostolo Paolo esprime lo stesso rammarico ai Corinti e dice: fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, leggete il rammarico dell'apostolo Paolo qua, come si fa profondo, perché vuole, fa appello a lo stesso appello che io sto facendo a te questa sera, fa appello ai credenti di Corinto a dire non rimanere in quella situazione. E dice anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Il rammarico dell'Apostolo Paolo è che riconosceva che questa Chiesa aveva un potenziale. Aveva il potenziale di essere una Chiesa che brillava nella città di Corinto. Il potenziale di essere credenti maturi che si elevavano per essere una testimonianza e una gloria tutto attorno a loro. Ma il suo rammarico è che questi credenti si ritrovano ancora ad una condizione infantile di spiritualità, infantilità nella loro vita da credenti. E fa appello a loro a dire: non accettate questo, non accettare questa condizione. Perché Dio ti ha scelto non per farti rimanere bambino, Dio ti ha scelto per farti diventare maestro, uomo, persona matura. Dio ti ha scelto per elevarti. E sai come lo puoi fare? Questo verso ci mostra un altro aspetto, dicendo no al compromesso. Gelosie, sentimenti che non sono in accordo con la volontà di Dio. Sentimenti, turbamenti interiori, invidie, gelosie, cose che osserviamo e che vorremmo e che non otteniamo. Gelosie, quella condizione carnale, terrena. E Dio vuole dire: non essere quella baracca. Io ti chiamo ad essere un grattacielo. Non rimanere in quella condizione. Ti puoi elevare ad essere qualcosa di molto più glorioso. Elevati, supera questa situazione, supera la gelosia, supera le contese. Erano credenti che avevano aspre contese che non erano risolte. Noi tutti abbiamo contese, ok? La Bibbia mostra che è assolutamente naturale e normale avere delle contese. Ma cosa fai della contesa? È ciò che determina quanto ti muoverai e ti sposterai dalla gloria che vivi oggi alla gloria successiva che Dio ha in mente per te. Metti in pratica la parola. Quando leggi la parola nella tua stanzetta e dici, e leggi, no? Nessuna contesa, nessuna ira, nessun mormorio. Quando leggi, se uno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. Se uno ti maledice, tu benedicilo, prega per lui. Prega per chi ti perseguita, a chi ti toglie il mantello, dagli anche la tunica. A chi ti chiede di fare un miglio, tu fanne due. Quando tu nella tua stanzetta leggi questi versi e mediti su questi versi, poi chiedi allo Spirito Santo: dammi forza di poter vivere questo, tu ti elevi ad essere un maestro, tu ti elevi a una condizione gloriosa, che è esattamente la condizione gloriosa che Dio ha in mente per te. Questo messaggio è fondamentale nel pensare ai quattro messaggi che hanno a che fare con di gloria in gloria. Ho pensato: il fondamento deve essere questo. E questo è il fondamento per la tua vita. Sapete, sono 4 anni che sono pastore di questa chiesa e mi sono reso conto che fare il pastore è estremamente difficile per certi versi, però è anche estremamente facile. E stasera vi voglio promuovere tutti ad essere pastori, perché è facile essere pastore, puoi fare il pastore. Davanti alla situazione difficile di un credente, di un fratello, di una sorella, davanti alle gelosie, alle invidie, a tutto quello che può vivere, ai bagagli negativi, a scelte sbagliate, a tutto quello che può essere la feccia che un uomo, una donna può vivere, nel fare consulenza ti basta una sola domanda. Chiedi a quella persona: stai passando del tempo con Dio? Stai leggendo la parola ogni giorno? Perché sapete, il 90% dei problemi, il 90% delle situazioni che non si sbloccano, il 90% dei credenti che rimangono delle baracche quando invece sono chiamati ad essere dei grattacieli, è proprio nel segreto di spendere del tempo giornalmente con Dio. E questo tu lo puoi riconoscere per la tua vita. Io non voglio farti pesare questo messaggio come un messaggio di accusa, però Dio ti ama. Ed è Lui che ti riprende perché vuole il meglio per te, sei suo figlio. Ed è Lui che ti sta chiedendo: stai venendo alla mia presenza? Ci facciamo tante domande, entriamo in crisi: ma perché il Signore non apre questa porta? Perché non mi succede questo? Perché non mi elevo come mi viene promesso? Perché non vivo quell'esperienza di gloria in gloria di cui il pastore parla? Fatti questa domanda. Stai passando del tempo di qualità con Dio? Noi vediamo miracoli ad ogni ritiro, miracoli su miracoli. E sapete qual è il segreto del ritiro? Ve lo voglio rivelare. Il segreto del ritiro è che ci appartiamo e stiamo alla presenza di Dio. E il segreto per una vita di successo per te e per me rimane quello: che ci appartiamo e stiamo alla presenza di Dio. Leggi la Bibbia, medita la parola, scava e applica la parola nella tua vita e passerai dalla gloria in cui ti trovi oggi, perché è glorioso il fatto che tu sia qui, è glorioso che sei figlio di Dio, ma c'è una gloria successiva per te. Scegli di farlo oggi, scegli di lasciare il biberon. Questo è quello che dice la parola di Dio, in altre parole. Scegli di lasciare il biberon e mettiti davanti una bella bistecca, una fiorentina. Quanti vorrebbero una fiorentina stasera? Quanti vorrebbero un biberon con del latte? Meno male. Sarebbe triste se qualcuno alzasse la mano. Gianluca diceva stamattina: ho immaginato un uomo di 42 anni descrivendo sé con un bibero in bocca. Ve lo immaginate, no? Ve lo immaginate? No, non voglio chiamare nessuno, però immaginate me con un bibero in bocca, no? Con il bavaglino, dentro una culla, con il pannolone. Quanto sarebbe triste, quanto sarebbe triste. Questa immagine credo che non la toglierai più dalla mente. Dio ti chiede questa sera: lascia il bibero, lascia il bavaglino, lascia la culla, lascia il pannolone, lascia il pannolone. Potrei predicare su questa immagine: lascia il pannolone, non è più tempo di fartela addosso. Potrebbe partire un altro messaggio stasera, ma voglio finire qui. Lascia le cose da bambino, scegli di essere maturo e vivi il passaggio di gloria in gloria. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Se questo messaggio sai che era per te questa sera, e decidi con me questa sera di spendere più tempo nella parola, immerso nella parola, e questa sera tu decidi di maturare a quella statura alla quale sei chiamato, io voglio pregare per te. Io voglio pregare perché forse in questo messaggio lo Spirito Santo ti ha detto che devi accettare a partire da oggi la correzione. Forse era questo quello che lo Spirito Santo voleva dirti: accettare di essere vulnerabile e permettere a qualcun altro di dire ciò che deve cambiare in te per essere più simile a Cristo. Forse questa sera devi scegliere radicalmente di prendere in mano la Bibbia giornalmente e leggerla. Ci sono applicazioni che ci aiutano a farlo. Vatti a scegliere un piano di lettura e comincia a farlo, e lo puoi fare con qualcun altro in modo tale che dai rendicontazione e ti disciplini in questo che è un fondamentale esercizio per la tua vita. Forse questa sera devi lasciare quella condizione di agio e di comodità che sta nell'essere perennemente immaturi. c'è un agio, c'è una comodità nell'essere bambini. Il bambino scarica tutte le responsabilità sugli altri, costantemente, no? E questo è anche a volte per credenti, scaricare continuamente le responsabilità e mai crescere a maturità e dire: io voglio essere responsabile per me stesso, per la mia vita e per la mia condotta a immagine di Cristo Gesù. Forse è questo quello che devi fare stasera. O forse stasera devi decidere di dire basta a un compromesso, a una gelosia, a un'invidia, a un peccato di natura sessuale, a un peccato nelle parole, a un peccato che sai che stai vivendo e sai che la parola di Dio ti dice di non farlo, ma tu continui a farlo e rimani alla statura di una casetta quando invece sei chiamata ad essere un grattacielo. Non lo so qual è la tua scelta stasera, ma sono convinto che tutti noi abbiamo una scelta da fare. E se vuoi che prego per te, ti chiedo di chiudere i tuoi occhi, alzare le tue mani, perché Gesù è vivo e Lui è presente qui in questo luogo. E Gesù, meglio di me tu conosci la nostra Chiesa, meglio di me tu conosci ciascuno di noi. Padre, io vedo davanti a me una bellissima città che si eleva, io vedo dei grattacieli che diventano sempre più alti, sempre più splendenti, sempre più solidi, sempre più moderni, sempre più attraenti e luccicanti. Io vedo davanti a me questa Chiesa, perché a questo tu ci hai destinati, come Chiesa pieno Vangelo, a risplendere della tua gloria, a mostrarlo in questa società che vive nelle tenebre. Ed è per questo, Padre, che arresi con le nostre mani alzate, ti chiediamo aiutaci a superare la condizione di immaturità nella quale ci troviamo. Aiutaci questa sera ad accettare riprensioni, aiutaci questa sera a diventare maestri, esperti della parola, a cibarci ogni giorno della tua parola. Aiutaci Gesù, aiutaci tu, perché lo desideriamo e lo vogliamo e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo bisogno che tu ci aiuti quando siamo distratti, abbiamo bisogno del tuo aiuto quando ogni giorno siamo presi da così tante faccende e non abbiamo tempo, non ci ritagliamo un tempo per stare con te. Aiutaci tu, Padre, ricordaci questo messaggio durante questa settimana, ricordacelo per questo mese, per questa stagione. Aiutaci Gesù a ricordarci che è così fondamentale scavare in basso per alzarci in alto. Io ti prego, Padre, per chiunque questa sera sta con tutto il cuore alzando le sue mani perché vuole dire basta al compromesso, basta rimanere in una vita che non cambia, che non si eleva a gloria perché vive nel compromesso e non riesce a sbloccarsi da peccati, da macchie. Io prego nel nome di Cristo Gesù che ogni peccato che è qui rappresentato possa essere non solo perdonato in Cristo, perché noi riceviamo il tuo perdono Gesù, ma io prego che nella potenza del nome di Gesù ogni catena si possa rompere e che ognuno dei tuoi figli possa correre libero di gloria in gloria, libero da quelli che sono i peccati e i compromessi, liberi dal tentatore che viene per tentarci. Gesù, noi vogliamo essere come te, vogliamo poter avere l'autorità di cacciar via Satana dalla nostra vita per fare vivere tutto quello che tu hai in serbo per noi nel futuro che ci sta davanti. Non vogliamo rimanere nel deserto, non vogliamo cadere nel compromesso, non vogliamo rimanere bambini. E io prego che questa Chiesa, dalla gloria in cui si trova, di cui ti sono grato perché per grazia tua dove ci troviamo oggi, possa elevarsi a una gloria superiore e successiva. Nel nome di Gesù prego questo per ogni persona qui presente. Amen. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Puoi ripeterlo con me, dire nel nome di Gesù. Amen. Ripetilo ancora, nel nome di Gesù. C'è potenza nel nome di Gesù. Lui è venuto per liberarti. Lui è venuto per darti un destino glorioso. Nel nome di Gesù sii libero e cammina di gloria in gloria. Vogliamo adorare il Signore. Stai ancora alla sua presenza. Fai ora la tua preghiera davanti a Lui. Prendi una decisione ancora in questo tempo. Adoriamo il Signore.